carissimi amici, bentornati a Morti di Bestemmia. Dopo tantissimo tempo siamo finalmente live qui con voi per raccontarvi le nostre faccende, i nostri cazzi, ma soprattutto tutte le varie problematiche che di solito vogliamo sfogarci contro di voi. Non so cosa sto dicendo, ma io sono Simone Pizzi e con me accanto c'è il solito Marco Gualdi. Comunque non sto morendo di bestemmia, sto morendo di caldo, però questo incrementerà chiaramente la quantità delle bestemmie che... e anche la qualità delle bestemmie, la qualità sarà sicuramente superiore, la qualità. Infatti poi dopo cerchiamo anche di coinvolgere il poco pubblico che d'estate giustamente ci ascolta. Capisco, birretta fresca, uno si mette bestemmie anche noi dopo, anche noi. E abbiamo dall'altra parte del Vesuvio, così non so dove, Alex Raccuglia. Marco 2. Oggi sono in modalità berserk definitiva. Me ne sono successe tutte sta settimana. Oggi sono proprio ne ho per tutti. Che poi Skype dice che tu sei AR. Attenzione, guidante sta cosa. Va bene. E già torniamo dunque a Morti di Bestemmie dopo un po' di tempo che abbiamo, perché insomma non eravamo abbastanza carichi, non abbiamo aspettato che succedessero delle cose quindi quelle cose che poi alla fine ti portano a biastimare contro l'universo intero e insomma proprio ultimi eventi recenti, insomma, e poi adesso vi racconterò anche qualche cazzo mio perché è giusto pure che, insomma, che io lo faccia. Eventi recenti ci hanno portato a dire: ma perché non raccontiamo? Perché insomma è successa una cosa importante. Io ho visto Marco Gualdi in modalità berserk, che cioè è una cosa che non si può dire, però la dovremmo dire perché poi la raccontiamo. E là da lì in poi ho detto: no, dobbiamo fare la puntata berserk, che non è possibile, non te ne facevi una ragione, saresti mai creso, non me lo sarei mai creso, esatto. Ma che poi diciamocelo, noi che Morti di Bestemmia l'abbiamo utilizzata per sfogare la nostra indignazione verso tantissime cose. E tra l'altro c'è già un messaggio di Danilo Giardino che dice che stai andando in berserk ora perché praticamente c'è un suo amico che incolpa lo Ius Soli degli incendi sul Vesuvio. Vabbè, sì, è vero, c'ha ragione. Cioè, perché colpa di Ius Soli, vanno Ius Soli o Soli? Non so. Soli. Soli, il Soli no, è plurale, singolare? Soli. Sole. Uguale. Il Sole. Non so, il Sole scalda, il Sole brucia. Latina, e quindi, cioè, praticamente i Soli. Ah, i Soli. I Soli bruciano. I giusti Soli. Vabbè, perfetto. Vabbè, comunque, torniamo a noi. Guarda, dicevo, bestemmiare stasera, ma veramente. Già cominciamo a porco duare. Non mai. Porco duare, sì. Quell'altro a meno che, non ecco, stava Dio. A meno che, ecco, non ci siano i credenti del 2. Esatto. Allora in quel esatto. caso magari, scusateci, ma comunque dicevo che abbiamo utilizzato questa trasmissione per indignarci contro fenomeni della società che insomma abbiamo detto più volte. E in realtà ci sono anche altri fenomeni della società sui quali ancora non ci siamo indignati. Fenomeni però, minori, però non per questo meno importante. Prima o poi ci arriviamo, perché questa puntata col berserk secondo me un po' racchiude tutta una serie di questioni. Però poi perché berserk? Ma perché date le botte al microfono, porco zio? Marco! Madonna di Dio! Cazzo, Marco, sono vent'anni che fai podcast! Anni perché mi sta cadendo addosso? Tieni le mani nel culo piuttosto! Ho capito, ma ci finisce il microfono nel culo! Fa niente! Guarda che non si regge! Non si regge! Allora, aspettate, scusate! È tremenda la cosa, cioè, sono visto che mi cadeva addosso! Io ho paura. È bellissimo adesso... tutto questo. Momenti di alta trasmissività. Oh, sì, questi sono momenti di alta e adesso entra in berserk. È il microfono. È entrato in berserk il microfono. Ci sono. Perché berserk? Perché quello che abbiamo imparato con la nostra esperienza è che esistono tantissimi status alterati. Di alterazione, di rabbia. Tipo cecità, cioè, sordità, berserk. C'è l'indignazione. Indignazione. Com'è Marco Guadi quando si indigna, per esempio? Un pacco da qua, un pacco da là, quello che ti guardo, ti giudico, però non ti dico niente. E si sente da... allora, in realtà non si sente perché, però, dalle narici, sapete, no? Però non si sente perché è interiore. Sì, c'è gente che quando si incazza emana odori. cioè nel senso, ma non che è una forma di autodifesa, eh, no, è perché tutti i pori della pelle non so che tipo di effetto strano gli fanno. Nel frattempo poi è successo niente di tutto, in questo momento si abbassano i microfoni da soli così a casaccio, vabbè. Questa sarà una trasmissione un po' particolare, abbiamo capito. Secondo me è bellissima. Cioè, poi c'è, io per esempio quando sono indignato sono infastidito, se vede proprio in faccia, cioè nel senso, non è che Alex, tu quando sei indignato che fai? Come ti esprimi? Io quando sono indignato, io sbuffo, però l'indignazione negli ultimi tempi sta lasciando il passo al mi incazzo come una vipera, per il resto scendo ti ammazzo in qualche modo. Cioè, nel senso, proprio una cosa violenta, insomma, visto, io non so cosa sta succedendo, non so se sto registrando, però vabbè, sti cazzi, adesso sento degli eco veramente stranissimi, o forse al troppo alto. La grande professionalità che qui ci contraddistingue. Lo so, ma ragazzi, siamo tra l'altro con 3 ventilatori a palla, le finestre chiuse, quindi veramente un gran casino. Io invece, sì, ho detto quando sei, però invece quando mi incazzo, si sente che mi incazzo. E mangi odori anche tu? A qualche volta sì, perché quando mi incazzo inizio a strillare per lo sforzo il corpo. Può succedere, insomma. Ed è assolutamente Tesla certificato, quello, certificato. Tesla certificato. E poi vabbè, c'è proprio quando uno perde il controllo, e poi non è, diciamo, come un giorno d'ordinaria follia, no? Che a un certo punto uno impazzisce proprio del tutto e fa cose che non dovrebbe fare. Qui si tratta semplicemente... i famosi 5 minuti. Sì, quelle però, cioè quel stato di rabbia che in quel momento tu saresti in grado di fare un po' di tutto. Cioè, nel senso, dici, io so veramente. Cioè, no, ma non è più cosciente, cioè sei proprio incazzato, sei fuori di te, sei un'altra persona. Sei come il Evangelion, no? Quando Vai in Berserk, che comincia a menare tutto spiano fino a che si mangia addirittura l'avversario, no? Esatto. Nel senso, che questo è un po'. Perché poi prende spunto Alex dalla cover che ha fatto ancora una volta, cover azzeccatissima, ha preso lo spunto dal fumetto. Dal fumetto Berserk, sì, sì. Che tu conosci, spiegaci. Partiteci, vabbè, così il fumetto. Sì, sì. No, il fumetto è Berserk, che tratta in realtà di uno che si incazza. Va bene. È ancora in corso perché questo si incazza per anni. No, il fumetto è molto bello, però in realtà è difficile da spiegare, soprattutto un'altra trasmissione, diciamo. Ok, perfetto. Ma vogliamo dire da cosa deriva questo termine? Esatto, facciamo un momento super quark. Volevo arrivare là. Dai, fallo. I berserkir, dalla parola norrena al singolare berserker, talvolta anglicizzato in berserker, erano feroci guerrieri scandinavi che avevano fatto giuramento al dio Odino, da loro adorato nella sua forma di Vöden, letteralmente furore. Prima della battaglia entravano in uno stato mentale di furia, detto berserkgangr, che li rendeva particolarmente feroci e insensibili al dolore. Le fonti nordiche descrivono spesso la condizione della Berserkgangr con un'espressione che al lettore moderno suggeriscono l'idea di uno stato di trance e che non hanno mancato di suscitare tentativi di interpretazione di tipo psicologico o neurologico. Cioè stavano vippati in pratica. Ma sì, praticamente sei talmente incazzato che vai e non capisci, cioè ti parte l'embolo, è presente. Noi italiani che siamo gente che appunto diciamo sempre le stesse cose, ti porto l'embolo. Ma poi, vabbè, però quelli lo facevano, nel senso si caricavano proprio loro, no? In modo che sì, alla fine. Cioè, e poi aprivano gli avversari a mani nude in due. Esatto, e invece noi purtroppo è la vita quotidiana. Ce lo impedisce. Queste civili opere di persuasione verso il prossimo. Esatto, insomma, che poi cioè, ci mettergli le mani in bocca e aprirlo. Purtroppo. Perché io, per esempio, la prima volta che mi è capitato, ecco, forse adesso lo sentite. Ma veramente. Perfetto. Meglio? Sento come se sì, tu fossi dentro di me. Lo so, infatti sei, mi piace anche un po' esserlo dentro di te. Allora, la prima volta che mi è capitato di vedere una persona in Berserk è stato tutto a caso per strada, perché chiaramente la guida secondo me è uno dei fenomeni che istiga di più il berserkismo. No, dicevo, comunque adesso intanto mi avvicino, adesso mi si risente. Dicevo comunque che la strada, secondo me, anzi la macchina, la legge della non strada, è una condizione per cui l'essere umano è nato. Cioè l'essere umano può volare, può nuotare, può andare sott'acqua, andare nello spazio, ma in macchina probabilmente c'è qualcosa che si rompe, che si spezza. No, è un po' un discorso forse più antropologico che psicologico, perché secondo me la guida presuppone, cioè, un rapporto con l'oggetto, macchina, proprietà, possesso, la paura di rovinare la cosa che ti appartiene, non lo so, perché io ho visto in Svezia, ho detto, due persone si sono tamponate, sono scese civilmente dalla macchina, sono scambiate l'assicurazione, lei sta bene, sì, arrivederci. Poi sono andati a casa e si sono suicidati entrambi. Oppure però hanno picchiato la moglie, però lì per lì hanno dato, sta presa, invece da noi, che e allora io la prima volta, perché siamo latini, noi ci piace siamo la latinanza, però comunque alla fine io la prima volta che ho visto un berserk è stato mio padre, che fa una manovra che non doveva fare, uno gli esona perché gli stavano addosso per colpa di mio padre esce fuori dal finestrino con l'occhio di fuori, cioè con la vena sul coso, una cosa impressionante, che non avevo mai visto una cosa del genere da mio padre. Quando è finito sto berserk, perché poi è durato poco, berserk gangre, esatto, io ho detto, scusa, ma era colpa tua, sti cazzi, chi mena prima mena tuo, cioè nel senso, lui la filosofia di mio padre era, dato che io ho strillato per primo e più forte di lui, c'avevo ragione. Molto interessante. Esatto. Ma c'è chi lo che fa, è stata una lezione di vita, tutto questo. Sì, no, però ecco, tu per esempio, quando hai visto il primo berserk della tua vita, Marco? Il primo berserk della mia vita, c'è, cioè, un amico nostro che conosciamo, che io conosco un po' meglio di te. Comunque, dicevo, la prima volta che l'ho visto è questo nostro amico che abbiamo in comune, che ha cominciato a prendere, vedi, adesso è alzato, a prendere a pugni le serrande di un negozio in piena notte, perché aveva fatto l'incidente ed era andato addosso lui addosso a uno che stava facendo manovra. Quindi c'aveva torto. Assolutamente sì. E però è andato in berserk che ha cominciato a prendere a pugni le cose. Forse sapendo di non poter prendere a pugni l'altro ragazzo, perché quello poraccio aveva messo la freccia e stava a girare. Intanto salutiamo Carmine. Sì, ma comunque è vero, la macchina è terribile, ma non soltanto per una questione di avere una proprietà che si potrebbe rovinare, perché tante volte uno si incazza anche perché magari uno gli ruba il parcheggio, per dire, tipo Michela l'altro giorno, però si è trattenuto perché l'altro se n'è andata. No, si è trattenuta perché c'era un precedente, dopo ci arriviamo a sta cosa, perché è il berserk di oggi praticamente. Tu invece, Alex, quando hai visto una persona per la prima volta andare in berserk, e cosa ti sei domandato dentro di te? Allora, mio padre, ovviamente. Certo. Però quella volta mi sa che aveva anche abbastanza ragione lui, col vicino di casa. E devo dire che mio padre ha pronunciato delle parole che io non pensavo potessero uscire dalla bocca di mio padre, ma non tanto per il bestemmione, perché quelli potevano anche starci, è proprio il significato delle parole che ha detto al vicino di casa, che io ho detto, mamma mia, la violenza, sì, come dire, cioè delle tipo cose, una maledizione, delle cose che, ripeto, io sento dire soltanto nei film, ma in Gomorra probabilmente, che non mi aspettavo. Sì. Io sono rimasto lì così, tipo però di sgozzo la creatura, ma qualcosa del genere, devo dire la verità, non proprio quello, però qualcosa del genere. Devo dire che tra me e mio padre quello che entra in berserk di più sono io, no, mio fratello è quello che veramente quando va in berserk, sì, lui proprio è cintura nera del berserk, ma quasi da TSO, spero che non mi senta, però devo dire che però va bene, funziona meglio. E devo dire che però anch'io quando esco dalla grazia di Dio, veramente c'è l'inferno in terra. Per esempio, a me un'altra seconda volta era sempre un parente, uno zio, che praticamente c'era nell'agenzia di assicurazioni che avevamo, insomma, quella vecchia, la Grottaferrata, c'era un tizio che era andato su dall'avvocato, e a un certo punto l'avvocato ci fa dei segnali veloci con l'interfono per farci capire che questo stava da de matto, e praticamente siamo saliti di sopra, mi zio praticamente ha preso questo senza sapere niente, ha preso per colpo, era grosso sto tizio, e poi praticamente l'ha portato alla porta, ma lui ha preso la porta e ha cominciato a sbattere la porta velocemente dicendo: tu te ne devi andare a fa culo. Ma lo faceva sulla porta per non farlo con la capoccia di questo, perché l'intenzione del mio zio in realtà era di sfragnare la capoccia di questo per terra, sul vetro, sul balcone. L'intenzione era di sfragnare la testa di questo tra la porta e lo stile. Esatto, però lui, però per non... Perché qui c'è stata una fase cosciente del berserk, cioè nel senso ha cercato di limitare la questione praticamente usando un oggetto così, insomma, che sul quale transitare la sua rabbia. Vabbè, va bene, cioè nel senso è encomiabile questa cosa. Sì, tutto sommato sì, perché poi in realtà gli ho visto fare una cosa del genere un'altra volta senza usare il transfer, cioè nel senso, però diciamo che quella persona in quel caso nel secondo episodio se lo meritava, e anche lì sempre con la stessa logica, capoccia sbattuta per terra, te ne devi andare a far culo. Che neanche nel cinema la cosa del genere. È bellissimo. Sono rimasto turbato, non so se tu ce l'hai voluto scene dove poi il berserk si è trasformato in violenza. No, no, quello fortunatamente ancora no. Non tu, dico. Ah, no. Ho visto gente che picchiava altra gente furiosamente. Eh sì, beh, così visto. Ma no, no. Fortunatamente no. Cioè, noi abbiamo assistito a berserk da bar, quelli sì, però niente di che, insomma, bottiglie, cose. Attenzione che Danilo ci ha condiviso il messaggio. Ah sì, lo vado a leggere, con la mia proverbiale precisione. Allora, vista la latitanza del governo di Roma, fortemente impegnato sullo Ius Soli, perché non chiediamo aiuto a Trump e Putin? Così, così. Comunque, un minuto di silenzio. Comunque io penso... Un minuto di bestemmie. Io vorrei fare una puntata di morti di bestemmie sulla democrazia. Cioè, sta democrazia serve? Perché oggi dobbiamo porre questo. Sì, guarda che sono discorsi un po' da fascio, eh. Lo so, però... Ma mica è detto, Ma dipende sempre da che parte la prendi. E tu invece, Alex, hai mai visto un berserk trasformarsi in virulenza... Allora, fammi pensare. Magari anche per strada, gente che non conosci, non hai detto che però. Ma no, appunto, gente che conosco, mio fratello. Che però... mena, lui mena. Sì, sì, no, lui prende a pugni le porte, mettiamola così. Mentre in giro fammi pensare. Guarda, non lo so, ripeto, cioè, ho già visto tipo ieri i due che si stavano menando perché un tizio ha superato con un camion ha superato tagliando la strada un motorino, così, e il motorino ha detto: "Oh, che cazzo fai?" E quello è quello del camion che aveva tordissimo e stava scendendo, stava cioè queste cose là. È partito. Sì, dopo facciamo il beep quando faccio l'edizione. Vabbè, perché Alex, ricordati, quando fai così tu te ne devi andare a fare il culo. Esatto. Ma vogliamo raccontare le nostre esperienze. Le nostre esperienze, perché io vedo questa scaletta piena di roba divertentissima. Sì, che voglio sentire. Inizierei, però casualmente io ce l'ho tutta in macchina. Salutiamo Pier G che ci saluta e dice: in auto con mia madre, un pirla, mi dice già qui il pirla, capito? Quindi già ha dato la sua. Mi taglia la strada ed è stata l'unica volta che mia madre mi ha sentito bestemmiare. Ma quello che tu non sai è che in questo momento Pier G sta rompendo la tastiera. Cioè, esatto. Perché nel ricordo c'è il transfer. Lo sta scrivendo comunque PRG. Sei il nostro eroe per adesso. No, infatti, esatto. Ma noi poi vogliamo sapere, cioè, nel senso, l'effetto della cosa, perché la cosa lo immaginiamo, tanto più o meno ci incazziamo tutti per le stesse cose. Perché noi un giorno stavamo andando alla Fiera di Roma con Michela, e Michela stava con la macchina nuova, stava sulla corsia più veloce, e c'era uno dietro, ogni tanto gli faceva i fari perché voleva passare. Però Michela non riusciva a passare. In Italia funziona così: tu l'auto vai dove vuoi, se solo metti la freccia o accendi i fari hai ancora più diritto di passare, anche se non ce l'hai, perché dice la freccia non la metti mai, quando fai fare basta, devi lasciar passare come se fosse un ma questo poi era andato in scimmia, anche lui era andato in mezzo. Sì, tu calcola che stavo nella terza corsia, quella veloce, a destra nella seconda corsia era pieno di macchine, quindi non è che potevi andare a speronare qualche altro povero disgraziato. Infatti, tra l'altro davanti a noi c'erano altre macchine, quindi ma che a dire che capito? Ti togli tu e gli altri di conseguenza si spostano tutti per lasciarti andare come uno stronzo che esce allegramente dal buco del culo. Vabbè, questa comunque, è proprio una ecco, mi sta la metafora fantastica. Comunque la cosa meravigliosa è che praticamente Michela gli faceva cenno, aspetta, cioè intanto, cioè questo ormai sarà stato 3 minuti, 4 minuti sta cosa, quindi pure insomma un tempo abbastanza lungo, fino a che a un certo punto Michela riesce a trovare il pertugio, insomma, per riuscire a farlo passare, lo fa passare. Noi tutti all'unisono, eravamo 4-5 in macchina, eravamo 5, noi tutti quanti all'unisono, a un certo punto abbiamo cominciato a battere le mani, bravo, bravo, bravo, in maniera estremamente plateale. Questo è entrato in modalità berserk. Cioè ha cominciato a frenarci davanti, a zigozzagarci davanti, un pazzo. Cioè era uno che aveva dato fermatevi. Sì, adesso, una cosa che cioè, io non l'ho mai vista, una cosa del genere. Cioè no, non voglio senza contare che se ci fossimo fermati ci pigliava pure gli schiaffi, a meno che non c'era un fucile a pompa, esatto, una pistola, un coltello, quello che ci avrebbe preso gli schiaffi da proprio esatto, pure dalle femmine, anche dalle donne, soprattutto sì, dalle donne, esatto, credo. Cioè questo ha cominciato a fare il matto in questo modo e giustamente poi Michela un po' si è agitata, ma quello che è sorprendente è Marco guardi de fuori, di dietro si è uscito fuori completamente dal finestrino, cioè stava tipo praticamente mezzo busto de fuori. Ferma, deve rompere il culo, assurzo, vieni qua, mangia il culo bene. Non so che cazzo si sa, non mi ricordo neanche. Non si sa perché aveva perso completamente. Era un berserk grunge. Era andato il berserk com'è? Grunge, questo è grunge. No, grunge, no, quell'altro invece era. Non lo so, grande. Grunge. Vabbè, faccio 10 anni. Gangbang, sì, esatto. Una cosa assurda, cioè, nel senso, ma tutti siamo rimasti. Tant'è che Michela poi a quel punto non sapeva più se essere preoccupato del matto, che comunque continuava a far matto fino a che poi non è dovuto. Uscita, la sua uscita del raccordo e via dicendo, o se preoccuparsi di Marco Guardi che dico boh, qui gli schizza il sangue dall'orecchio, perché insomma stavo proprio, cioè, io non ho mai visto una cosa del genere. Tu Marco cosa ricordi di questa esperienza? Non lo so, vedevo soltanto dei mostri che dovevano essere uccisi. Delle cose, delle creature, sì. Tu le stavi uccidendo tutte, sta sprangando a suon di parolacce, che poi insomma sta follia sarà durata un minuto, ma a suo minuto, cioè, era una follia con quello che stava in berserk de suo, Marco Guardi in berserk de suo. Sarebbe stato veramente bello se la cosa, insomma, vabbè, insomma, ragazzi, è stata un'esperienza che ti vorresti ripetere? No, non lo so, ti vorrei ripetere perché in realtà per strada, quando poi vai a una certa velocità, è veramente pericolosa una cosa del genere, perché quello era veramente matto. Insomma, vabbè, questo è stato Carmine il Carmine ci chiede se sono rientrato. Sì, sono rientrato, anche se in realtà volevo uscire fuori. Sì, ma sono rientrato. Sembrava che avevamo vinto i mondiali, cioè nel senso, penso che neanche i mondiali abbia mai fatto una cosa del genere. No, assolutamente. Stava sono fuori dalla macchina. Composta. Io vedevo sto braccio che si muoveva indicando ferocemente entrambi i medi. Cioè, c'erano tipo 15 medi. Pezzo di merda, vieni qua, bro. Ma io veramente sono rimasto così. Penso di aver insultato i tre quarti del suo albero genio. Ma secondo me anche a casaccio, sì, perché sì. A quel punto, quando sei immerso, perché l'odio è verso il mondo, non è che. Perché gli dicevano, Marco, stai calmo, sto decidendo. Vabbè, questo è insomma il berserk dei Marco. Sì, perché poi come cercare di svegliare uno che è sonnambulo. Esatto. È sempre un rischio. Quando uno sta berserk lo devi lasciare stare, cioè assolutamente. Comunque, anche voi che state in linea, a parte l'amico BRG che ci ha raccontato, quindi Carmine, magari anche Danilo, raccontateci anche voi il vostro Carmine, berserk. Carmine, racconta di quando ha sfondato a pugni la Dorada. Chi? Carmine. Ah, Carmine, ah, sì, ci ha raccontato già. Sì, ce l'ha raccontato, l'ha spiegato. Che poi anche Carmine è un altro di quelli che non ce lo vedo proprio. Sì, però come ci ha spiegato dopo, e ha spiegato al meccanico che gli ha chiesto come ha fatto a spaccare la Dorada a pugni, perché aveva scoperto di essere cornuto. E quindi. Vabbè, ah, una delle fantomatiche sempre. Piuttosto che sfondare il cranio della persona, esatto. E allora. Ho sfondato l'autoradio con il cranio della persona. Con il cranio della persona sarebbe stato meglio ancora. Allora, vediamo Alex, vedo che ce n'ha diversa. No, però, tu, Marco, però voglio, se volete parto io col mio primo, che è una cosa che dura da 4 mesi e che è sfociata nel mio berserk ieri sera. Allora, metà marzo di questo mese, di quest'anno, il mio modem Telecom muore. Praticamente si accende, dopo un mezzo minuto che è acceso si spegne e poi ricomincia. Cerco su internet qual è la causa, e questi modem sono modem un po' del cazzo, vabbè, insomma, Telecom te li ripara. Allora cerco di capire qual è la procedura, guardo sul sito di Telecom, bisogna portarle in un centro team e spieno il mondo, fai quelli col modem e te lo sostituiscono, va bene. Vado in 3 o 4 centri team che tutti mi guardano: cazzo vuoi del modem, noi facciamo sui telefonini, tac, via bella, sai, queste cose proprio, cioè, il modem, cazzo è un modem, i telefonini. Alla fine trovo in un centro team che non voglio nominare, praticamente richiamo, ma voi fate anche supporto modem? Sì, va bene, allora se vengo lì col modem mi date, guarda, sono le 18:30, alle 19 noi chiudiamo, vorremmo andare a casa, vabbè, se vi faccio sto piacere, siete carini, vengo il giorno dopo. Il giorno dopo vado, cioè io tutto questo è durante ore di ufficio, perché dovevo prendere dei momenti per poter andare a questo negozio, perché il negozio chiudeva a un certo punto. Allora arrivo nel negozio, questo è praticamente il primo di aprile, già sembra. Io intanto, tra l'altro, al telefono con Tim ho fatto la segnalazione, loro hanno detto sì, al telefono quelli di Tim sono sempre stati molto carini. Arrivo lì, mi faccio il modem, ovviamente con la fattura, con copie, incartamenti, cioè carta da bollo, il mio rogito, cioè qualsiasi cosa ho portato qui, mi fanno: però oggi il computer non mi dà la procedura di sostituzione. Il computer non ti dà sempre voglia, cioè, queste cose lì. A un certo punto mi dicono: guarda, purtroppo non possiamo sostituirlo, devi mandarlo in riparazione. Io: what? Cioè io non posso stare giorni senza il modem. A un certo punto dico: no, ma lo mandiamo. Vabbè, facciamo. La padrona del negozio mi dice: guarda, in realtà sembrava anche una persona normale, non potremmo fartelo, ma ti diamo in prestito uno dei nostri, dei modem. Va bene, mi do il mio modem, loro me ne danno un altro, però più piccolo, proprio grande come una schiatola di fiammiferi. Hai detto: ti chiamiamo noi quando tutto finisce. Questo è il primo di aprile. Arrivo a casa. Quando tutto finisce è brutta. Esatto, sì. Quando il mondo finisce. Siamo lì. Arrivo a casa, attacco sto cazzo di modem e non va. Non è che sono scemo, lo riconfiguro, faccio tutto. A un certo punto non funziona, metto un modem ancora più vecchio, mi faccio prestare mio fratello, e funziona. Male, ma funziona. Detto: vabbè, aspetto che mi richiamino. E non mi chiamano. A un certo punto mi sono dimenticato della cosa, finché mia moglie mi dice: oh, ma sto cazzo di modem, quando è che... Vabbè, è vero, telefoniamo al negozio. Ma il modem non è ancora pronto. È andato. Il modem è andato. Tipo, esatto, no, il modem è non andato. È ancora pronto. È però si ricorda, come dirlo, ma vabbè, adesso ti chiamiamo noi quando è pronto. Vabbè, a un certo punto io chiamo Tim dicendo: ma ragazzi, e loro mi fanno: come? Ma non le hanno dato un modem sostitutivo? Sì, lei doveva prendere un modem esattamente identico a quell'altro. E a un certo punto questo qui dal servizio telefonico dice: lei non dovrebbe stare neanche un giorno senza modem, facciamo una cosa, vi dicono loro: lei vada al negozio, e quando è al negozio io la richiamo, cioè loro, il centro team mi chiamava e mi fa parlare con la padrona del negozio e ci l'ammazziamo di bestia. Va bene, allora sì, a questo punto arrivo nel negozio. Non c'è la capa, ma c'è la sua sottoposta, quel tipo che mi ha masticato la bocca. Gli spiego tutto: ciao, sono Alex Accuglia, bla bla bla. Chi sei tu? Non è importante chi sono. Gli spiego, spiego velocemente questa cosa qua. Non ho capito un cazzo. Non l'ha detto così, ma senso. Senti, allora facciamo una cosa: sono qui al telefono con la team, ti parla lei. Allora strabuzza gli occhi, posto che la capa non c'era, cercando di non capire, cosa c'è, cosa va, cosa non va. A un certo punto la tipa del negozio, intanto che ha il telefono quello della team, chiama al telefono la sua capa, quella che manda, e cercano di metterci d'accordo. Insomma, fondamentalmente ha detto: sì, vabbè, domani sera ti diamo tutto. Cioè, ragazzi, però sapete, vi rendete conto che io, cioè, non posso prendere ore d'ufficio per venire qua? Sì. Allora, a un certo punto mi richiamano finalmente dal negozio. Allora, lei deve venire qua con la bolla di accompagnamento del modem. E io: what is the bolla di accompagnamento del modem? Vabbè, fondamentalmente praticamente devo garantire che quel modem è mio. E non, tra l'altro, cioè, sì, va bene. A un certo punto li richiamo, dico: ma mi dica una cosa. Sì, ma voi questo cavolo di modem, voi mi avete detto che ci avrebbe messo 2 settimane per la riparazione, perché sono poi che sono passati 3 mesi? No, ma senti, allora facciamo una cosa: io sono una persona ragionevole, lei mi dice: per ora mi sono dimenticato di mandarlo, cioè, vabbè, la risolviamo così. No, ma perché di qua devo risolvere? Io ero sul balcone dell'ufficio, cominciavo: che cazzo dici? Troia! È ovvio che mi sta. No, anzi, no, gli ho dato di nuovo lei. Che cazzo dice? Lei è ovvio che mi sta prendendo per il culo. Lei, questo lei, cazzo dai. Di modem se l'è tenuto in casa e non mi ha fatto un cazzo. Potevate dirmelo, vaffanculo, troia! Io ho messo giù il telefono. È stato bellissimo perché ho urlato a un livello assurdo. Questa cosa qui è veramente, cioè, credo che mi abbiano sentito a 300 metri di distanza. Al che poi la sera, vabbè, vado a casa a cercare sta cazzo di bolla, che è appunto il modem. È da un anno che sono in questa casa, non ce l'ho, non la trovo più. A questo punto, secondo me, la bolla di accompagnamento non esista proprio. No, la bolla di accompagnamento modem, secondo me, era nella confezione del modem, che è in mano a loro. Adesso devo andare da loro con le orecchie basse. Cioè, non è che la cazzo di bolla sta dentro quel cazzo di modem. Vabbè, sarà molto divertente. Vi farò sapere come è andata a finire. Però fatto sta quindi che veramente ci devi tornare ancora. Sì, ci devo tornare. Gli hai educatamente detto che è una troia. Sì, esatto. No, perché poi una troia. Al primo cazzo ho detto: ma guardi, non è il caso di alterarsi. Ma che cazzo dici? Mi altera come? Mi hai preso per il culo per 3 mesi. Che beh, io sono il primo a dire. Io sono ragionevole. Gli errori li fanno tutti. Tu mi dicevi: guarda, è successo un casino, mi è morto il gatto, c'ho le scoregge anali. Va bene, non è un problema, non l'hai spedito, va bene. Ma non, a me il fatto di negare sempre, questa cosa di negare sì, sempre, è una sì, cosa sì, che sì, mi dà sì, proprio sì. Mi fa incazzare di bestia. Il negare sempre è una soluzione facile del cazzo da bambini. La vera soluzione non è dire negare sempre: no, non sono stato io. Chi ha rubato la marmellata, chi lo sa? No, sei stato tu, lo dici e te ne assumi le cazzo di conseguenze. Non negare sempre, perché questo è il negare sempre da supercazzola. No, ma c'è la procedura 27 bis che non mi consentiva di spedirlo se non quando avevo le zampe dietro il collo. Figa, queste cagate qua sono proprio cagate di merda, perché poi vengono a galla e a questo punto ti massacro di bestemmie. Scusate, adesso prendo un po' d'aria. Noi ci piacerebbe, ecco, la ricostruzione psicologica, quindi anche questo tuo transfert sulla telefonata. Questo è, io se fossi te l'avrei registrato. Ma a posteriori sì. Cavoli, io dovrei vivere con una telecamera, perché le cazzate, le peggio cazzate che faccio sono meravigliose. C'è da dire che in questo periodo in ufficio, e lì si apre l'altra bestemmia, in ufficio da noi vige la regola del l'ambiente è sacro. Non accendiamo l'aria condizionata finché non c'è qualcuno che sviene. Questo perché la maggior parte dei miei colleghi sta nell'ufficio che sta praticamente all'ombra. E infatti quando il sole arriva dalla loro parte lo accendono. Da me ci sono mediamente 3 o 4 gradi di più. Io entro nell'ufficio la mattina, trovo 28 gradi e mezzo nella loro sezione. Da me ce ne sono 31-32. Ora io arrivo a mezzogiorno che già non capisco più come cazzo mi chiamo. Porca merda. La mia produttività scende a zero. Figa di merda, cioè. No, no, ma è così, no, vabbè, questo in realtà anche quando stavo sulla corda ferrata funzionava così. Non si accende l'aria condizionata perché bisogna risparmiare, bisogna fare attenzione alle spese. Poi arriva mio fratello, accendeva l'aria condizionata. Quindi è stato che bene. No, sì, tutto sì, è sì. Quando fa freddo. Ah beh, le donne sono problemi. Ma tua madre fa freddo, cazzo, ci sono 38 gradi fuori. Bravo, questa pure mi 18 computer accesi, c'ho un server che scalda come se fosse una centrale nucleare in fusione attiva e vaffanculo c'è freddo. Ma infilati un cazzo scaldante nel culo e scaldati. Mettiti una minchia di maglione, non rompere la minchia. Non rompete la minchia, andate tutti a cagare, freddolosi di merda. Perché io non posso strapparmi la pelle per avervi preso. Cazzo di merda. Tranne mia moglie, le donne sono un problema, perché mia moglie, per esempio, la condizionata tipo se la spara addosso, una cosa che io non riuscirei mai. Però insomma, vabbè, in generale comunque cagano il cazzo, è vero. Perché io, quando stavo sulla grotta ferrata, c'era sta cosa, no? Oh, fa caldo, accendiamo un po' l'aria. Vabbè, accendiamo l'aria. Senti, la spengo perché fa freddo. Ah, rotto il cazzo. E questo è un po', insomma, le procedure che succedono. Pure da te, Marco Gualdi. Però vedo che Marco Gualdi, tu c'hai un altro berserk. Sì, l'altro berserk, anche questo in macchina. Vedi. La macchina. Allora, voi immaginate, me ne stavo tornando in ufficio in macchina, strada a senso unico, ok? Svolta obbligatoria a destra. E fin qui. C'è un marciapiedino, per cui io la prendo, decido di prendere leggermente più larga, perché molti ci vanno a finire sopra il marciapiedino e non fa tanto bene. Quindi che cosa faccio? Mi allargo leggermente, giro verso destra per ovviamente fare la curva. A un certo punto un coglione si infila a destra. Ovviamente io non posso girare, lui non può girare perché gli sto praticamente davanti. Tiro giù il finestrino e fatto: scusa, ma sembra normale sorpassare a destra. Ma io ho visto che giravi, ti allargavi, o credevo che girassi verso sinistra. Guarda, la sinistra è contromano. Cioè, non è che mi metto a girare a sinistra così, insomma, stavo allargando. Sì, però mi ha fatto strano. Cioè, come, sì, però mi sono cominciato ad inalterare. Guarda, già sono dei sei occhi rossi. A destra, mentre io stavo girando in curva, tra l'altro, e su queste cose non si fanno. Sì, però lì ho cominciato a tirare addosso, non le bestemmie, ma tante di quelle parolacce e urli, che io penso che mi abbiano sentito 5 macchine di dietro, con i finestrini chiusi, cioè io le vene proprio fuori. Esatto. Mario Brega. Così, di fuori, questo qua è andato via, zitto. Che lo piano se ne andò. No, riparlo, prego. Penso di averli fatto un po' paura. Ma sì, il problema è questo, è la paura, cioè questo fascismo imperante del senso. Io tratto male quelli che stanno sotto di me e sono uno zerbino con l'archia bassa quelli che stanno sopra di me. Cioè non c'è il concetto di eguaglianza. Poi è ovvio che qualcuno dice, come dicono in chat, che la democrazia ha dei punti deboli. Cavoli, se il tuo approccio alla democrazia è proprio questo, no, minchia, cioè come dire, se alzo la voce allora c'ho più ragione di te. No, porca merda. Quello poi diceva mio padre, cioè io strillo per primo, quindi ho ragione. Cioè nel senso, strillo talmente violentemente che quello si deve convincere che per essere così incazzato ci deve avere ragione. Cioè, nel senso, è tutta psicologia questa. Hai capito? C'è tutta una strategia dietro che poi bisognerebbe parlare. E qui fa veramente anche qui una puntata a parte su le ragazze, la macchina e il cellulare. Vabbè, io a parte che ho visto gente che si truccava in i macchina, trucchi, infatti, i trucchi. Esatto, però vabbè, non voglio neanche arrivare a quello perché io ne so proprio eccezioni. Ma gente che si ferma e poi dopo, siccome che si ferma, sei tu che la tamponi. Quindi sei tu che c'hai torto, no? Questa è un po' la cosa che a me mi fa incazzare in una maniera invereconda. Un po', ecco, cioè. Vabbè, comunque. Io scusa, è perché mi è capitato per sbaglio di guardare la cosa del sacco e del tapino e sto lì lacrimando dalle risate. Scusate, no, non ci spoilerare. No, ci arriviamo, spoiler, ma è bellissimo. Comunque, invece, beh, io c'è stato un periodo che, insomma, per anni mi sono occupato della gestione dei sinistri. La gestione dei sinistri non significa semplicemente aprire e gestire il sinistro, avere comunque una relazione con l'ufficio sinistri per portare anche informazioni ai clienti, ma avere soprattutto cioè una relazione, un'interazione con i clienti. Perché da quando c'è la legge Bersani, la compagnia che c'ha ragione si gestisce il sinistro. Per che poi ricordiamo, la compagnia che c'ha ragione è quella che urla più forte, ovviamente. Esatto, di solito sì. Questo dipende, perché a volte succede anche questo. Perché io ho visto liquidatori che ti dicono: no, io gli do 500 euro. Quello andava lì, strillava come matto e gli dava 1000 euro. Cioè, nel senso, sono buoni tutti a fare i grossi da dietro al telefono. Comunque, vabbè. E c'era praticamente una tizia che al sesto sinistro in un anno e mezzo, a parte che per me era una brigante già in principio, ma questa, alla fine questa praticamente che era successo, che ha fatto 6-7 incidenti, tutti quanti c'aveva ragione, con persone a rotazione, quindi alcune persone, poi tra l'altro poi questi quando fanno così non guardano manco in faccia se fanno due volte il sinistro con la stessa persona, capito? Cioè non ne frega un cazzo, cioè proprio sono talmente abituati, cioè talmente la faccia tosta. E alla fine che è successo? Che sto motorino gli hanno rubato, e giustamente il liquidatore ne fa, dice: sai che c'è? Con tutti questi sinistri tu fatte da tutte le fatture di riparazione di tutti i sinistri che gli abbiamo pagato, di cui su 6 sinistri gli erano pagati 3, gli altri erano ancora aperti e quindi non li avrebbero mai pagati. C'è dei 3 sinistri che gli abbiamo pagato, fate fare le fatture di riparazione, così poi noi possiamo conteggiare, insomma, quello che è giusto come è giusto, perché se non ci sono le fatture di riparazione, io ogni danno che gli è stato fatto io lo scalo dal valore del motorino, no? Certo. Nel senso, E questo ha cominciato a romper cazzo, ah, ma la nostra compagnia, ma siete dei zozzoni, siete qua, ma che madre è questo? Ah, io domani mi devi far sapere perché a me questi soldi mi servono, e poi ecco e là, poi vengo in agenzia, vengo con mio marito, via con chi cazzo te pare. Poi alla fine questa gente, Giuseppe, perché vince? Vince perché t'assilla talmente tanto che chi sia molla. Io che ho un senso di giustizia purtroppo innato, infatti lavorare con i sinistri non è una cosa che potevo fare come tante altre persone che conosco che andavano a magnaco con i periti e con i liquidatori. Io non ce la faccio, cioè, per me era una cosa, insomma, all'ultima telefonata a un certo punto io, sai che c'è, mi hai rotto il cazzo. Ma come, scusi, ma come si permette? Io qua voglio parlare col cavaliere. Ma hai rotto il cazzo? Hai capito? Mi stai rompendo il cazzo. No, ma io, ma qual è sto sistema? Mo chiamo mio marito, vengo. Vieni tu e tuo marito e te ne va a fanculo, brutta stronza, ladra de merda. Fanculo, hai capito? Fanculo. Sembra la storia di prima, no? Del vaffanculo, esatto. Perché evidentemente poi dopo diventa di famiglia sta cosa, sì. No? Nel senso, te ne devi andare a far culo, brutta stronza, hai capito? Se richiami, chiamo io la brigata, a far culo. Questa, ah, io adesso faccio un casino, e il casino faccio io, brutta stronza. Io ho attaccato il telefono. Nel mentre, in agenzia, c'è stato uno che era venuto per chiedere informazioni per una fideiussione. Vabbè, tu lì tu devi girare e dire, queste compagnie telefoniche sono veramente terribili. Poi io non ho detto niente perché era ancora in modalità. A proposito, ma le telefonate delle compagnie telefoniche, come fanno il Tramberzer? No, io dicevo adesso, a parte che con quell'applicazioncina tua, poi dopo ne parliamo, magari, sì. Facciamo pubblicità alle applicazioni utili. E alla fine, questo è venuto a chiedere. Vabbè, io l'ho sentito con la coda dell'orecchio, che proprio stavo. La coda dell'orecchio! Vabbè, con la coda del culo. Hai vinto la giornata. No, esatto, la coda dell'orecchio. L'ho a malapena intrasentito e questo diceva: no, ma vabbè, casomai rivengo un altro giorno e chiedo informazioni. E se n'è andato. Entra mio fratello, tempo veramente roba da un minuto e mezzo. Dice: ma quello dai fideiussioni? Io, mo ritorna. Poi ritorna, però cioè, stavo ancora proprio infervorato. E tante volte mi è capitato di fare queste cose, ma pure venivano là, io là, capisce un cazzo, io ma vaffanculo, cioè è proprio è il lavoro del merda, quello di sinistra è veramente il lavoro del merda. Tant'è che da quando stiamo qui a Monte Rotondo, diciamo la verità, mia moglie mi tiene lontano dal buco. Perché anche io ogni tanto, cioè io sto dietro il monitor in ufficio qua da me, cioè stesso c'è un monitor gigante dal quale ogni tanto io faccio la capocella quando sento qualcuno che dice una stronzata. Perché c'ho il Berserk in agguato io, perché mo la nuova moda qual è, ragazzi? Dopo le scie chimiche e i vaccini, la nuova moda sono le scatolette nere. A scatola nera dalla macchina io non la metto perché mi spiano. Allora, Marco, guardi, spiega la testa cosa, perché tu che c'hai le applicazioni, no, a vedere Google che dice Marco Gualdi ieri sera alle 11 stava a... Allora, se voi avete un cellulare Android con Bianco, Google sopra, c'è la possibilità che vi tracci qualsiasi... Gli dovete sempre dare il consenso. La possibilità, perché tu la rendi palese, ma lui lo fa comunque questo lavoro. Certo, nel senso, okay. Tu sei andato, quando ci sei andato, quanto tempo ci sei stato, esatto. Se ti è piaciuto il posto, qualsiasi cosa. Se ti è piaciuto prenderlo anche. Anche, esatto, sì. Come era la vignotta, insomma, tutte queste cose qui, c'è proprio... ed è tutto scritto, quindi è inutile che rompete a casa. Allora, perché secondo te però pizzi? In realtà la gente c'è Zilomsky che dice qualcosa, facciamo le bestemmie. Allora, comunque, secondo me la gente che ti dice che con la scatoletta nera la spiano è un modo delicato per dirti: con la scatola nera posso fare il bici. Allora, questo è vero, perché con la scatoletta in teoria oggi non si possono più fare gli impicci, infatti si discute sul fatto che prima o poi diventerà obbligatoria questa cosa. Il problema non so quelli che fanno gli impicci, quelli li capisci, cioè lo riconosci al volo. Il problema è la gente normale, gli ignoranti. Ho letto su quelli che entrano dentro l'agenzia. Io poi c'è una cosa che mi fa proprio bestemmia Gesù, no? Scusate, non lo dovrei dire perché questa è una radio. Però il poro Gesù, insomma. Io, tu non puoi entrare dentro un'agenzia dove ci stanno persone che hanno studiato per fare quel lavoro e dici no, io ho letto su internet, è come dico. Scusa, io ma se c'è gente che entra dentro gli studi medici dove c'è gente che ha studiato e dice io so che. Infatti quando io l'ultima volta sono andato dal dottore e mi ha dato la terapia, se lei è d'accordo, ho detto scusi dottore, devo essere d'accordo io. Ah beh no, ma a questi tempi lo devi chiedere se la gente è d'accordo, perché sono tutti i dottori, giustamente mi ha detto, no? E su questo io so d'accordo. Comunque io proprio sta cosa del vaffanculo, che chiaramente però è stato, cioè, molto liberatorio. Carmine ci dice sì, poi di eseguire la tracciabilità di Google Maps, però lo devi sapere, perché se non lo sai quello di default. E poi secondo me anche se lo disabiliti comunque ti possono tracciare. Ma sì, ma poi bellissimo. Cioè, bastano semplicemente le... Tu lo disabiliti, ma secondo te Google non lo fa lo stesso? No. Cioè, vuoi dire? Ma è chiaro, no? Ma poi la scatoletta nera, in realtà la scatola nera è onesta come tipo di discorso, perché loro te lo dicono che tu sei localizzato, ma ti dicono anche che quei dati non sono accessibili a nessuno se non per tua richiesta e per necessità specifica. A nessuno, sì, sì. Capito? No, a me mi hanno detto che ho letto su internet che io voglio il giorno in cui mi piacerebbe ci fosse una catastrofe dal punto di vista tecnologico, tipo un'eruzione solare, e tornassimo tutti negli anni 70. Questo ci vorrebbe, perché veramente, ragazzi, siamo nell'orlo dell'estinzione, cioè qui, e sarebbe anche giusto. Che poi, ecco, non vado a Berserk, perché sennò poi... Vabbè, comunque, questo è il lavoro, secondo me, è la seconda causa del Berserk dopo le autovetture. Pensi che lavora in macchina, tipo d'assistente. Però vedo una cosa che ha scritto Alex... sui bambini, a me ci piace sempre parlare male dei bambini. Alex, che mi incuriosisce. Allora, io tendenzialmente sono una persona che ci sono delle cose che danno fastidio e cerco di tenermele per me, però ho paura che col caldo, la mancanza dell'aria condizionata, accumulo, e a un certo punto le cose che mi danno fastidio mi danno veramente fastidio e faccio fatica a trattenere. Adesso un morto di bestemmie, che mi farò dei nemici adesso, lo so, sono i bambini timidi di merda. Quelli, ma come ti chiami? Gli faccio, ciao, come ti chiami, il bambinetto? Comincia a fare tutti i gesti, si nasconde dietro la mamma. Ma che cazzo ti nascondi, coglione? T'ho chiesto come ti chiami, mica t'ho chiesto di metterti nudo e di farti sculacciare, cretino. T'ho chiesto come ti chiami. Prova a prendere scherzi, poi la madre e poi anche il padre, perché di solito ci sta dietro anche lui. No, di solito la madre dice dai, digli come si chiama. Simone si chiama Simone, esatto, per quello che loro fanno così. Tanto lo dice la madre, lo deve dire a fare lui, cioè giustamente. Porca minchia, che palle. Se avrò un figlio prima così, se fai il timido giuro che ti massacro di botte. È quella stronza di tua madre. Ma in realtà in realtà a me succede il contrario di solito. Sono i bambini che vengono a chiedermi come mi chiamo e io li traumatizzo. Perché ero succede... presente. Come mi chiamo io? E scappano da lì. Poi chissà questa cosa quanto li influenza nel futuro. Ma io spero sempre tanto. Esatto. No, sta cosa dei bambini, che poi proprio recentemente stavo parlando anche con dei nostri amici, no, che i bambini sono buoni, una mera più grande delle menzogne dell'umanità, sta cosa che i bambini sono buoni. I bambini sono stronzi, perché proprio perché non hanno filtri, sono quello che saremmo noi nelle stesse condizioni, cioè stronzi, cioè. Poi vabbè, c'è quello di indole più paciottosa. I bambini non sono cattivi, sono stronzi. Sono stronzi, esatto. Perché per loro non c'è buono, cattivo, bene, male. Loro sono così, è stato brado, è normale. Stato brado. Vabbè, niente, c'è altro? Perché io ce l'ho un'altra cosa da dire. Io ce l'ho un altro berserk, ma purtroppo mi sa che non lo posso raccontare. Perché no, anche dai, se... raccontalo. No, anche se... non lo posso raccontare. Troppo allora, vi devo dire due cose, che è il motivo per cui tra l'altro sono in Berserk in questi giorni, proprio Berserk latente. Allora, una cosa che mi dà fastidio, morti di bestemmie, sono quelli che usano i modi di dire del cavolo, quelli che Piuttosto che niente, le mail piuttosto. Cioè, non so che da voi non si dice, da noi al nord si dice piuttosto che niente, le mail piuttosto. Che non vuol dire un cazzo, cioè, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Detto così. E lo dicono tutti come se fossero loro ad aver inventato sta minchiata. Ma che cazzo? ma ti ascolti con le minchiate? Cioè, nel senso, dio bonus, cazzo di merda. Cioè, piuttosto niente, meglio piuttosto. Oppure quelli che... Eger, che il bus del culo è Eger. Dopo 20 anni che i... come si chiamano? Famosa, Aldo Giovanni e Giacomo ha inventato sta cosa. Basta! Che basta. Poi che vuol dire? Ma non vuol dire un cazzo! è proprio questa la cosa, mi dà proprio fastidio. Detto questo, vi racconto perché c'ho il berserk latente. Io sono a digiuno da 2 giorni. Perché sono stato malissimo. Per scelta? Ah, okay. No, sono stato un po' per scelta, un po' per obbligo, credo. Sono stato male. E il medico, siccome è una cosa che ha a che vedere con un malessere che ho avuto 10 anni fa, probabilmente non è legata, è soltanto un virus. Però per evitare, per sicurezza, lei non mangi niente per 2 giorni. Beh, insomma, non mi sembra un medico, ma almeno qualche integrazione. Nel senso, almeno per... la sua della zampa di pollo. Che ti ha sputato addosso mentre lo diceva. No, perché voi dovete sapere che a monte rotondo, se tu puta caso per sbaglio vai a finire al pronto soccorso, esce fuori un negro con l'occhio di vetro con la zampa di pollo e ti sputa addosso e ti cura. Può essere aiuto. Non posso dire altrettanto di altre mediche, di altre cose. Ma lui lo fa con le buone intenzioni, che sì, una... sì. Però insomma, vedi, il medico in ciabatte con l'occhio di vetro che o te curo io. Vabbè, dai, scusate questo momento. Poi sapete, mi piace il razzismo. Non siamo razzisti, quindi cioè... Ma non siamo razzisti, ma come lo so. Vabbè, niente, vai. Siamo razzisti, anzi abbiamo tanti amici neri. Tanti amici razzisti. Stavo raccontando che era a digiuno. No, nel senso, il secondo giorno posso mangiare solo del riso senza nessun tipo di condimento, e anche poco. E vabbè, insomma, adesso cercherò. Il problema è che il dottoressa mi fa: le faccio la ricetta così sta a casa un po' di giorni. Ma no, guarda, stia a casa. Il problema è che la ditta è mia, cioè, nel senso, domani devo comunque andare ad Arezzo a fare sta trasferta. Vabbè, si riposi, grazie. Poi nel fine settimana cercherò di trovare un modo per riposarti. Ma comunque, no, perché è importante, insomma. Cioè, ma ti ha dato qualche integrazione, cioè qualcosa? Mi ha dato, sì, dei fermenti. No, ripeto, il digiuno vero e proprio sono solo 24 ore da oggi a mezzogiorno a domani a mezzogiorno. Poi c'è un giorno, altre 24 ore di riso in bianco. Perché noi da lunedì siamo a frutta, io e mia moglie, quindi... Saranno fruttariani. Vedi, fruttariano. No, solo per una questione di disintossicazione, perché mi sono sentito proprio pesante, proprio intossicato. Mi è venuto un bubone in faccia. Ho detto, vabbè, allora, 4-5 giorni ci disintossichiamo e poi iniziamo una dieta fatta. Come se deve. Fatta così. Vabbè, comunque, chiudiamo questa cosa con le tre cose che proprio ti mandano in berserk, quelle prime cose che ti vengono in mente, Marco. Purtroppo riguardano tutte internet, quindi i faciloni. Quelli che i faciloni di internet, quelli, allora, che però ti commentano internet, ma incazzo, ma non mi manda in berserk. No, però mi mandano abbastanza. Alcuni politici di cui non faccio i nomi perché le 5 punte mi pungono. Detto cosa che si chiama? No, vabbè. Ok. E basta, cioè, poi non so che cazzo è che mi fanno tante cose. Tanto si è alzato il microfono, la macumba. Il mixer che oramai è andato. Secondo me hai fatto qualche. Non esiste niente. Fade up on. Ma non esiste su questo microfono, è completamente analogico. Sto cazzo. I poltergeist, quello potrebbe benissimo essere. Invece a me. Una cosa che veramente mi manda in berserk profondo è se quelle poche volte che vado a fare colazione al bar, la gente che si piazza è come se stanno a casa loro, cioè il bancone è casa loro, si conversano, leggono, fanno, stanno lì e lo sanno che tu stai dietro, aspetta il turno tuo, e a più lo sanno e più devono morire. Che quel cappuccino gli si deve andare da una parte della trachea dove gli esplode una vena e muoiono all'istante. Anche questo è un po'. Stessa cosa per quelli che stanno andando via dal parcheggio, che ti hanno visto che tu stai aspettando improvvisamente diventano le persone più lente del mondo. Questa è una cosa che qui. No, quello lo faccio anche io. Da però perché sono lento. Devi morire. No, no, allora no, io ti dico di quelli che lo fanno apposta. Ma come fai a saperlo? Lo sai, lo capisci. Perché quando vedi che hai capito queste cose, lo specchietto, le cose, ma che cazzo stai a fare? Ma va a fa culo, brutta zoccola, perché so che sono donne. No, ma anche uomini, eh. Sì, sì, anche uomini, però di solito sono donne. E se sono uomini dovrebbe spuntare fuori Marco urlando Afrasio! Sono merda! E vabbè, quelli che ho col cellulare. Il cellulare sono proprio. Cioè, persone pericolose che stanno lì. Oppure che proprio si fermano. E tu dici, ma che sta a fare questo? Perché. Ah no, come l'altro giorno, quelli che si fermano con le mignotte. Ah, quelli sono veramente pericolosi. Quelli sono veramente da arrestare, ma non perché vanno a mignotte, eh. Sono pericolosi. Quelli sono veramente pericolosi. Quelli devono proprio. Cioè, tu immaginati che a un certo punto stai viaggiando sulla Salaria, ovviamente bruciando tutti i limiti di velocità, come è normale che si faccia sulla Salaria, quando i limiti sono 50, è normale. Certo, vanno a 50. Vanno a 50, ma che cazzo, solo perché stanno le buche, e coprite queste cazzo le buche, no? Ah, pure quelle mi fanno andare in verso, perché le buche di Roma, mamma mia. Sì. Però, e tu immagini che stai andando a una certa velocità che non è, non so, 150, questo è mezzo. Sono esploso, porca puttana, non ho startato. Stai andando per le tue cose e a un certo punto c'è una macchina di fronte a te che inchioda, perché poveretto, quello che sta dopo ancora di lui, che è un puttaniere, si è fermato, ha inchiodato per andare a parlare con la mignotta. Ma porca puttana, no? Ma dove vai a costare? So, questo è un grosso problema. Invece Alex, te le altre tre ultime proprio al volo veloci? Allora, beh, in automobile sono quelli che ti si piazzano dietro e siccome hanno una Golf, perché se mentre hanno una Golf o una macchina grossa, ti dicono io devo passare, presente l'effetto bravo, bravo, no? E tu dici un attimo che io non sono quello che rallenta apposta, nel senso se appena posso spostarmi dalla corsia esterna. Sì, ma anche noi abbiamo fatto così. E poi perché se c'è uno più veloce di te, poi ti toglie, cioè normale, c'è spazio. Ci sta, voglio dire. Esatto. Ma se posso. Esatto, poi una volta quando ti arrivano praticamente che diventano pericolosi, che poi ti arrivano sotto, mi dire ti spavento perché io c'ho il SUV, poi c'è il cazzo piccolo, ma c'ho il SUV, allora gli faccio il gesto piano piano, allora si Alex, lo sai che più. Adesso che ci penso, mi sa che gli ho detto qualcosa di simile a quello del SUV. Hai fatto solo che bene. Allora, poi quando ti sposti e questi. È vero? C'è un cazzo piccolo, sto proprio. Ti sposti nella corsia numero 2 e questi ti vengono addosso comunque, presente l'approccio, che quello è proprio eccesso di cocaina e di caldo secondo me, perché uno fa queste cose qui. Vabbè, così voi avete pure questo problema del cocco che da noi magari c'è. Ma guarda, insomma, che Roma è il secondo posto dove si consuma cocaina in Italia, solo che avete così tanto traffico che è andata troppo piano per gli screri. Sì, finisce l'effetto. Siccome l'italiano medio è fascista, ogni tanto mi piacerebbe avere una pistola giocattolo, ritirarla fuori così, fargli vedere, oh, non mi superare se non ti sparo. Poi voglio vedere che effetto ha. Secondo no, invece me. Io lo stavo a dire l'altro giorno quando stavamo parcheggiando a Roma Est. A me piacerebbe avere tanti milioni, ma veramente essere uno straricco per andare in giro andando addosso alla gente. Boom, boom. Mi stai rubando il parcheggio. Boom. Spero mai. Ah, mi vuoi superare? Boom! Vaffanculo. Questo che non ci deve fermare nessuno. I ciclisti. Però devi spaccare. I ciclisti tutti proprio a tipo domino. Questa è incitazione all'omicidio, insomma. Ah, tra l'altro poi è pure successo un evento, insomma, abbastanza brutto. No, quello del tizio che è andato in berserk, vedi pure lui, perché poi dopo ha inseguito quelli che ha moto, l'ha buttato giù, lei è morta, lui penso che sarebbe forse meglio che muore, perché non so come si recupera. Questo dice insomma che la strada e lo stato d'animo e il caldo non sono compatibili, purtroppo. No, no, assolutamente. La guida non fa per l'uomo. La vera crisi è dentro di noi, non è. Poi appunto si manifesta in altri modi. Adesso non vorrei fare proprio dei discorsi banali, però porca puttana, se per una cosa del genere schiatti viene ammazzato, no? Cioè non è proprio qui, sono proprio dei neuroni che si staccano per motivi esterni, non è naturale una cosa del genere. Bene, allora, brevissima pausa, poi torniamo con le rubriche e insomma la parte più veloce della trasmissione, dove poi anche qui ci sono alcune chicche divertenti. E allora ci ascoltiamo Back to Black a CDC. musica che un po' ci porta anche in Berserk, perché insomma in realtà, ecco, come stavo raccontando anche ai miei esimi colleghi, questo è un periodo un po' particolare dove ci hanno rubato dentro casa, non ci restituiscono, la Nissan non ci restituisce la macchina se non prima di diverse settimane, quindi Carmine, informati per la macchina, perché credo che fare il viaggio in Germania con la Micra la vedo, perché, ah, però in compenso ci hanno dato, ringraziamo Auto Giapponese che ci ha dato la macchina così, senza chiedere niente, senza carta di credito e a tempo illimitato, quindi questo bisogna riconoscere. La Micra nuova, poi dall'altro, c'aveva 200 km la macchina che ci hanno dato, quindi insomma dai, bisogna riconoscere da questo punto di vista il servizio è veramente notevole. Ma a prescindere da tutto, adesso andiamo nel sangue del topino. Bella questa sigla, eh? Comunque, girovagando per la rete, ho trovato una notizia. È incredibile, è incredibile. Ascoltate, l'abbiamo presa anche da un sito che è affidabilissimo ed è web.archive.org. No, ma quello è il link, in realtà è insalute.com. Ma questo è un fake, secondo me. No, non è vero. No, è vero. Archive.org è un archivio di robe passate. Praticamente... Okay. Il sito vero è insalute.co. In salute. Il titolo è Sempre più donne. Tra l'altro questo compariva su Facebook. Sempre più donne si asciugano la vagina con il phon dopo il sesso. Vabbè, prima di tutto, perché ti appariva sul tuo Facebook? No, questo non appariva sul mio Facebook. Attenzione, perché io ricerco. Attenzione. Ah, ok. Ecco perché anche i medici lo consigliano. Potrebbe sembrare una pratica perversa, eppure, stando a quanto dice una ginecologa statunitense, si tratta di un modo molto efficace per combattere le micosi vaginali. Attenzione. Sparasse il fono nave. Detta così, dopo il sesso, le donne che sono soggette a infezioni fungine alla vagina dovrebbero utilizzare un fon tra le gambe. E qui spiegargli che non va infilato dentro, bisogna utilizzarlo acceso e fa... capito, asciugarsi così. No, però scusate, io devo assolutamente interrompere, cioè, ma per esempio la vasse no, cioè, no, dopo che ti sei lavato, no, è l'umido, cioè, tu mi devi far parlare perché okay. Tu stai dando della falsa medicina così. Ah, ok, okay. Non do la giusta informazione. Secondo la dottoressa Alice Dweck, perché immagino insomma ha scritto nel suo libro nota cialtrona, vaginofila, vagiosciugologa. Allora, nel suo libro The Complete A to Z for UV, bella, bel gioco di parole, dalla A alla Z sulla vostra V, vista per vagina, esatto, avregna, esatto, avregna. Esatto. Praticamente anche una sessuologa tedesca di nome Beatrice Wagner dice che quando si fa sesso con il nostro partner ci scambiamo molti batteri che si sentono a casa in un ambiente umido come la vagina. Ah, come sto bene dentro la gnocca. Anche noi ci sentiamo a casa in un ambiente simile. Pensa un po'. Batteri mica sono... del batterio. Batteri mica coglione. Che non deve manco fa di cazzo. Se è sopravvissuto miliardi di anni è perché ce la sa, insomma, è il batterio. Io intanto alla tipa che c'ha tutti questi problemi dei funghi mi farei qualche domanda pure sull'uomo con cui trombi, insomma, anche. Sì, beh, se lo fai col barbone, cioè, ma comunque ma quanto puzza questo, mi piace. Chi è soggetto, dice, a questo tipo di micosi dovrebbe utilizzare il phon, anche se, cioè, a posto del rapporto sessuale. Esatto. La domanda è questa, non si sa. E c'è anche l'immagine, che era la cosa che compariva su Facebook. Sì, è bellissimo. Questo fumetto della donna che si telefonava sotto la gonna, ed è bellissimo. Meglio, e l'articolo praticamente finisce con meglio specificare. Chiunque voglia provare questo metodo dovrebbe prima lavarsi con acqua calda, meno male, e poi usare un getto freddo. Ma il problema è che aspetta, già che lo devi specificare. Aspetta, fammi venire. E poi usare un getto freddo, perché provo l'acqua con l'aria calda, insomma, perché insomma non è proprio al massimo. Oppure, perché anche lì se scaldi troppo. Sentire questa è la chiusura. In alternativa si può utilizzare un asciugamano pulito. Ma vaffanculo, ma che cazzo di notizia del merda, ma che puttanata, cioè. Questo mi sembra come i consigli: fa caldo, bevete tanto e bambini anziani state a casa e non rompete il cazzo, soprattutto non rompete o in alternativa andate al nord. Cioè, ma nord di che? I nostri ascoltatori che, nord. Nel nord Europa. Che stanno scrivendo qualcosa in chat, se puoi vedere se... Ecco, Pier G, che se lo infilano dentro l'aria calda provoca l'effetto mongolfiera e possono manifestarsi effetti di levitazione. Ah, sto levitando dalla fregna. Danilo, se mi fai vedere un secondo, scrive qualche altra cosa, ma me l'hai tolto. Lo dico io. Ragazzi. Danilo Giardino dice: nessuna casa è meglio della propria vagina. Citazione di Judy Garland. Va bene, e allora a questo punto, ridateci il tempo perduto. Ma sempre perché le sigle ce l'abbiamo. No, infatti, proprio l'attimo della pezzentezza. È radio artigianale, radio ragazzi. Artigianale. Come a ritornare negli anni 70, insomma. Noi dovremmo... Ma è 1870. Chi ci ascolta dovrebbe apprezzare. Come fatto, no, certo. Che dovrei vuoi, fare? Vuoi uno stinger, vuoi un jingle, vuoi un effetto radiofonico? Tu wow, radio rock'n'roll. Su Runtime Radio. Runtime Radio. Allora, mi metti la notizia che... Oppure la metti pure la notizia che ne so, devi parlare tu, che l'ho messo io a sta per niente. Io ho messa. E allora? Io non ho messa per niente. E allora è stato Alex. Se leggi, dato che è pieno di bestemmie, è ovvio che l'ho scritto messa io. Vai, sì, vai, allora, vai. Ieri sera ho visto i primi 75 minuti del film Inferno di Ron Howard. Che due coglioni. Ma che film? Ma, è? No, è il seguito allora, del Cazzo Imperio. Allora, è il terzo film del trittico Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni. Ok, ok. Io ho letto i libri sia del Codice da Vinci che di Angeli e Demoni e mi sono, con grande vergogna devo dire che mi sono pure piaciuti. Inferno non l'ho letto. Il film è di una noia mortale, si svolge a Firenze ma non succede niente. Il Tom Hanks è veramente imbolsito, sembra proprio l'ombra di se stesso, che il punto di vista sono sempre gli stessi in pratica. Sì lui è sempre lo stesso, cambiano tutti gli altri. Io è talmente una primo. Noia, ma non è di questo che voglio parlare. Io voglio parlare del fatto che Ron Howard è stato chiamato a fare il regista Zerbino per il nuovo film su Han Solo, o su Han Solo, chiamatelo come volete, perché la coppia di registi precedenti faceva veramente i cazzi suoi e la Disney ha detto: che cazzo è sta merda? È presente che ultimamente la Disney dice ai film: che cazzo è sta merda? Rigiriamo circa il 40% di un film. Beh, fondamentalmente hanno fatto la cosa e hanno detto: scegliamoci un regista Zerbino, e hanno chiamato Ron Howard. Vabbè, che mai lui a me come regista non è, mi dispiace proprio tanto. Parliamo tutti, ma Ron Howard non capisce, uno dei più grandi registi del vivente. No, buono, no, non esageriamo. Però insomma, esatto. Ha fatto anche cose di carucce, insomma. Allora io devo dire che lui ha fatto la cosa più bella che ha fatto secondo me è stata Willow, che secondo me è un bellissimo film, anche se però è stato sceneggiato e prodotto da George Lucas quando George Lucas era in forma, che è, secondo me è uno dei film fantasy più belli di sempre. L'idea di farlo lavorare su un film del genere dopo che ho visto tutta la trilogia di come si chiama, di Dan Brown, poi Rush a me non è piaciuto come regia, e altri film che ha fatto recentemente a me non è piaciuto, persino Beautiful Mind, per dirti. Anche Cocoon? No, dai, Cocoon mi è piaciuto, ma negli anni 80 Ron Howard un po' c'aveva lo spirito del ragazzino, ma invece ma sì, no, perché era ancora un po' Gunning, sì, faccio il Chuck. Beautiful Mind non mi è piaciuto, dirti la verità. Cioè, bravo lui, brava lei, però iper retorico e soprattutto non ci ho visto una regia. E io nel Ron Howard non ci sento una sua mano autoriale. Però solo se sono io va bene. Non ci senti la mano sul culo, insomma. Esatto. Vabbè, non è David Lynch, vabbè, questo si è chiaro. Anche grazie a Dio. Poi quando torneremo dopo l'estate parleremo di Twin Peaks. Sì, perché lo dobbiamo vedere tutto. Lo dobbiamo prima finire, quindi non diciamo dobbiamo niente. Dobbiamo finirlo e non ci dite niente. Perché dobbiamo capirlo. E soprattutto, quindi. Ok, quello. Vabbè, comunque. Tra l'altro, fra 5 giorni ricomincia il Trono di Spade. Esatto. Infatti, Michela mi chiedeva: ma lo rifacciamo Morti di Trono di Spade? No, beh, dopo il clamoroso secondo insuccesso, me potremmo farlo. Qualche puntata, secondo me, potremmo pure fare. Però dopo l'insuccesso, no, il problema è che in realtà non è andata neanche male. No, no, solo che poi qualche ascoltatore ci ha detto: vabbè, ma non avete più fatto le puntate regolari per fare sta cosa, e a chi non gli frega niente. In realtà, avrebbe potuto fare un po' e un po'. Esatto, sì. Insomma, sì, ma in realtà, cioè, sono 10 settimane, sono 2 mesi e mezzo, abbiamo fatto 2 mesi e mezzo, abbiamo fatto 8 puntate, non è che mi sembra, cioè, Abbiamo fatto 8 puntate, però in 2 mesi e mezzo. Non è che le altre cose non le abbiamo fatte. Tra l'altro è stato l'unica cosa che ci ha fatto fare le puntate con estrema continuità, diciamo, la verità. Esatto. Quindi c'è più puntate di Trono e Spade che di Morto di Bestemmie in 2 stagioni. Insomma, questo è... Vabbè, comunque poi ci pensiamo nei prossimi giorni, perché c'è questo problema che l'anteprima è 3 di notte e neanche no, cioè, no, ma infatti io la guardiamo la lunedì sera. Anzi, stiamo organizzando una cena dove il diktat è: mangeremo tante schifezze e io sarò a digiuno, ovviamente. Anzi, dovrò cucinare schifezze per tutti senza mangiarle. Comunque io già l'altra puntata mi ero ricordato di aver visto un film che mi aveva fatto perdere tempo, ma non me lo so segnato allora, non me lo so segnato anche adesso, quindi vabbè, quindi niente, merda sto film. Ma veramente tanto, brutta. Che poi non l'hai finito di vedere. No, non l'ho finito perché poi è arrivata Miki e stiamo riguardando Il Trono di Spade la prima stagione, penso a te. E io mi ricordo un sacco di cose. Questo, quello che ha fatto, questo, quest'altro. Allora mi guardo, che cazzo è? Sai che c'erano 200.000 personaggi. Vabbè. No, è importante fare un attimo un excursus, insomma, per capire. Poi dopo interpelliamo anche Michela, magari gli va anche a lei di farlo. E a questo punto io lancio Libero Sudogiù Runtime Radio Enzo Culo. Che era il pezzo di classe quello. Radio Pezzente. Allora andiamo a vedere. Sì, no, ce n'è, io ho visto già uno. Ce n'è uno bellissimo. Sali su. Il primo è La vostra ultima cena. Esatto. Dovete scegliere pizza o pasta asciutta. Ma proprio perché pasta asciutta non dice più. Bravo. Bravi, pizza bravi, o pasta asciutta? Bravi, la pasta asciutta mi sa proprio una cosa da del mio. Ma andata a fanculo. Ma perché? Ma che sondaggio è? Cioè, voglio dire. Tu rispondi: pizza o pasta asciutta? Io niente, faccio una birra e va a far culo. Ok, tu Alex, visto pizza. Dipende dalla pasta asciutta. Tendenzialmente pizza, però sai, una carbonara buona mi piacerebbe. Dai, insomma, carbonara fatta come si deve. Anzi, la tua carbonara, che credo che sia una delle migliori che abbia mai mangiato. Bravo. Bella, bellissima. Nelle ultime ore, chi ha demolito meglio Laura Boldrini? Il negro. Oppure chi temete che il Papa possa nominare cardinale? Grandi domande. Ma questa mi è piaciuta tantissimo. C'è il cavo. Vi piacerebbe un ritorno di Berlusconi nel calcio? Ma io comunque, guarda, gli voglio tanto bene, ma io non credo che 90 minuti ce l'abbia più nelle gambe. Il fiato. No, ma lo sapete che comunque in generale, se io fossi un milanista oggi sarei veramente seriamente preoccupato. Perché tu dici, i cinesi ci hanno comprato e ci hanno dato 150 milioni da spendere per la campagna acquisti. In realtà non è. Questi si sono comprati il Milan e gli hanno messo a disposizione un fondo finanziario di 150.000 euro. Che significa? Milioni, sì. Quindi vuol dire che questi soldi prima o poi ci devono rimettere là dentro. Cioè, una cosa inquietante, insomma. Io vorrei verificare le condizioni. Mediaset, Pistocchi non conduce più. A voi mancherà. Ma chi è Pistocchi? Ma che cazzo ne so? Chi è Pistocchi, Alex? Un'altra sulla Boldrini. Era uno che faceva le moviole, se non sbaglio. Ah sì, ho capito chi è. Sì, ok. Perché non conduce più? C'è Nictus. No, lo so, non c'è interesse. No, allora l'hanno cacciato. Su internet dicono che è colpa della Juve perché ha fatto pressioni. Dal mio punto di vista credo che sia l'ultimo dei problemi della Juve in questo momento, Pistocchi. In realtà Mediaset è abbastanza in crisi. Stanno lasciando a casa veramente un sacco di gente. Anche perché questo è l'ultimo anno che hanno la Champions. Esatto. Sì. Per voi, quale sarà la prossima proposta della Boldrini? Cioè, ce l'hanno proprio, capito? Devono fare proprio la campagna di demonizzazione. Questo lo domanda in Berserk. Gli 80 euro. Vabbè. Gioco della torre. Chi buttate giù tra Matteo Renzi e Vanna Marchi? Ma perché? Mamma mia. Vabbè, giornale. No, aspetta, uno degli articoli più letti è, sempre di Libero, è: masturbazione e eiaculare 21 volte al mese previene il cancro alla prostata. Lo studio dell'università di Harvard. Ma la domanda è: 21, voi quante volte vi fate le pippe? Sì, la domanda è fatta. Non ho capito. Ha detto: voi quante volte vi fate le pippe? No, io cerco di stare sui 21, assolutamente. 21. Adesso cercherò. Anzi, muore conto. da oggi in poi li vanno ad aspettare l'inizio del poi mese, diventano come i giga che alla fine del mese ti fai sempre di meno, ti avanzano, se te devi sparare proprio. Oppure cazzo, sto mese non ho fatto niente, via 6 o 7 al giorno. Allora questo è bellissimo, si ricollega un po' nella cosa dell'ultima cena. Voi nella prossima vita che cosa vorreste essere? Tu che vorresti essere? Vediamo quali sono le risposte. Io vorrei essere un oro. L'abbiamo capito. Era Berserk questo. Quando vedete. Però aspetta, io sto votando per vedere le risposte degli italiani. Gli italiani dicono 19% un dittatore. Bravi, prepariamo il ritorno del 17% fascismo, uno scrittore affermato. 13% un agricoltore, ma 9% un potentissimo politico. Vabbè, lasciamo stare. È bellissimo. Radio fascio, telefascio. No, vabbè, ma il giornale è. Vabbè. No, questo è Libero. Libero, sì, Libero, il giornale, la stessa merda. Cioè non è che comunque, vabbè. Ok, a questo punto io direi che possiamo anche lasciar perdere. C'è l'ultima rubrica di questo episodio prima di andare al sondaggio, perché poi comunque abbiamo attaccato un sondaggio, no? Che pure noi l'abbiamo fatto il sondaggio. Non l'ho anche reso conto. E allora andiamo nella l'opposta dell'amore. Long Time Radio. Guarda come sei simpatica. Mamma mia, che bellissimi jingle. Che da adesso i jingle rimarranno per tutta la prossima stagione. Terribile. Perché questa è Run Time Radio, la radio artigianale, sicuramente. Ma la radio fatta a mano 21 volte al mese. Attenzione, fatta in mano. Cioè, ma se uno tromba, vale. Cioè, basta gli altri. No, secondo me sì. Però c'è scritto ma i jingle, la cosa bella è che ci sono anche i jingle, solo che li preferiamo rifare così a mano, questi, a voce, no, al momento. Cioè, io penso assolutamente bellissimi. Vecchia, te vedi come funzionano i jingle? Questa è la futuranza del nostro programma. Esatto. Comunque, fare i jingle che poi così, se uno vuole li cambia anche in così, potrebbero venire bene o male. Comunque, mi hanno scritto e vado a leggere. Perché sei ricercatissimo ultimamente. Io sono ricercatissimo. Allora, salve sconosciuto. Però vabbè. Sono Alena, residente russa. Che caso è? Russa. Lavorando economia. Lavorando. Okay. Ha deciso di pubblicare qui personali dati pensando che risponde era uomo che è interessato a conoscere con me. Io mi sono un po' perso, Vuole sapere se la conosce. Dici? Vabbè. Sì, io so. Io ho piacere un uomo solido, perché sai quelli morbidi. Vuole solido perché se sei traslucido. No? È così, No, perché se sei molliccio, vabbè. Possesso di un senso umorismo. E temi chi ha saputo trovare interessi comuni. Qua pure mi sono perso pure. Io facilmente trovo questo molte persone, ma cerca chi vorrei e riuscita a condividere tutte le gioie e le preoccupazioni. Io qua mi sono perso, poi non riesco a capire che cazzo ha scritto. Uomo, chi la nostra comprensione sarebbe a ideale. Cioè, che cazzo sta di questa? So, virgola, la perfezione è difficile da raggiungere. Questo è chiaro. Ma so, virgola, può almeno avvicinarsi a lui e mi è soddisfatto. Questo però è già vinto, ragazzi. No, ma magari. Io ci ho capito. No, veramente, a metà so che la perfezione è difficile da raggiungere, ma so, può almeno avvicinarsi a lui e mi è soddisfatto. È un po' veneziano, ma c'è già vinto. È così. Mia mona. Mie 28 anni. È Giorgio Binks, lui. Io optimist e allegro persona, che pronto a prendere ogni una persona, se solo avesse decente e in grado di negoziare. Li prende tutti, devo star dire proprio. Fabio. Tutto quello che è necessario. Stiamo potrebbe discutere in corrispondenza, trovando comunità di interesse. Comunque, Giorgio Binks. Cioè, mi sta scrivere Giorgio Binks. Credo trovare comunità interessi. Poi c'è una strana. C'è un strano simbolo massonico che non riesco a decifrare. Neanche Google Translate riesce a decifrare. Iniziale grave segnale. Che ci siamo conosciuti non a caso. E in seguito si potrebbero continua comunicazione. Quindi ho detto per te stesso più. Io, alla ricerca di un rapporto serio, vorrei creare una famiglia con preferito marito. Avere un bambini e felicità. Senti, ma ti ha mandato il foto? Sì, stava una bionda. La cosa più bella è che io ho tradotto sta cosa in inglese e l'ho ritradotta in italiano e ha più senso. Sto cercando un rapporto serio. Vorrei creare una famiglia con il mio marito preferito, poligama, che avere poligama. Un figlio e essere felice. Cioè ha più sensato se lo traduci infatti, due volte che dall'originale. È vero. Straordinario. Ho scoperto che Google Translate funziona meglio se traduci qualsiasi cosa in inglese e poi nella lingua tua. E certo, beh. Bene. Vabbè. Comunque, io non so, io lancerei un sondaggio. Secondo voi gli devo rispondere? No, non lo so, però vedo che. Io non ho capito che vuole questo. Questa si vuole sposare, ma io non la conosco. Questa cioè, vuole. Non sono pronto. Questa gli vuole gli dai i soldi. I soldi, ce l'hai i soldi? Tu rispondere con un altro simbolo massonico. Così. Sì, mi sa di sì. Chiudiamo con un sondaggio che abbiamo fatto oggi, insomma, proprio in virtù di questa live. Così poi salutiamo i nostri ascoltatori. Lo leggo io, Alex. Vai, va. No, Alex, si vuole. Alex. Aspetta, dai, aspetta, che devo trovare il sondaggio. Allora ce lo leggo io. Lo leggo io, già ce l'abbiamo. Quindi, in attesa della live, è stato lanciato questo sondaggio. Quella volta che siete andati in Berserk. Che bella. Sembra un po' una cosa di libro. Non me lo sarei mai creso. Esatto. Potrebbe essere scritto dalla tizia Lena lì. Avete evocato in malo modo figure religiose. Cioè, il vostro, come vi siete comportati? Esatto. Okay, non cosa, ma che cosa è successo quando siete andati in Berserk? E ha vinto con all'incirca 800 voti. Ok. Al secondo posto con 400 voti, quindi la metà, vi siete sfogati esibendovi in prestazioni di distruzione ben oltre la vostra portata. Quindi Berserk puro. Eh sì, hai visto quello là pure che facevano vedere su YouTube che ha sfasciato tutto il computer. Come il primo posto è il Berserk vocale. Delle bestemmie. Il Berserk vocale, esatto. Figurativo. Al secondo posto è il Berserk fisico. Attivo, distruttivo, esatto, attivo. Esatto. Terzo posto con 200 voti, Alex risponde su tutto praticamente. Ma Alex poi se l'hai messo da solo. Tutto, perché sì. Avete frantumato oggetti incrementando il valore di mercato di aziende come Super Attack, Prit e No, è praticamente l'azienda che ha fondato come startup Uhura. Avete strillato come checche isteriche, cioè, penso. Sì, ma io come isterica direttamente. Avete lanciato minacce di morte che subito dopo vi hanno telefonato quelli dell'ISIS per farvi complimenti. Questo ci può stare. Bene, ragazzi. Spero insomma vi abbia fatto piacere. Vorrei dire che questa è l'ultima puntata di stagione, ma voi state sempre con le orecchie pizze, perché magari non si sa mai, nelle prossime settimane veramente dovesse uscire fuori qualcosa sul morto di, sì, sul morto di spade, sotto le spade, oppure magari in altra puntata di Morti e Bestemmie, perché insomma stiamo andando un po' anarchici in questo finale di stagione, quindi a seconda del tempo che troviamo e quanto fa caldo, o se ci vado ad andare a bere una birra o sta a casa a registrare, registriamo insomma, e questo poi alla fine lo facciamo anche per stare insieme a voi e farvi compagnia. Io ringrazio e saluto Marco Gualdi, anche detto Berserk. Marco Berserk vi saluta. Io invece, Simone Pizzi, ve ne dovete andare a far culo. E salutiamo anche Alex Berserk. Ma mi sta pia per culo! Mi sta dando per il culo, cazzo! Perché lei mi sta pia per culo, lei? Esatto. Che sì. Gentilmente mi sta pia per culo! Un po' come il capo di una persona che conosciamo. Che insulta l'andole lei. Infatti, dato che, insomma, cosa c'è di più scafato e diciamo così, Berserk di un buon rock and roll redness, insomma la Bruce Springsteen con un rock and roll redness. Io redneck, giusto, c'è ragione. E ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. Puoi parlare, eh? Ah, ok, era Back in Black, però va bene lo stesso. Io ho detto? Hai detto Back to Black. Ma va bene, Back in Black? Ah, sì? Sì. Sicuri? Sì. Mi sa coglionato. No, guarda, ho risentito proprio adesso la trasmissione in diretta. Ho sbagliato. Ma capisci, dopo... se ne frega, va bene, cioè. Ah. Grande puntata, esatto, fino adesso, comunque. Ma ci sarà una band che si chiama Beth? A voglia. Cerchiamolo. Però su. Non hanno fatto grande strada, insomma. Perché bestemmiano la gente, al pubblico, quindi. Sono tutti. Andate a fa cola! Andate a fa cola! Runtime Radio. 28 programmi, più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese, interazione live durante le dirette, più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento. E continuerà a farlo nel futuro. Anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino, contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio, Runtime Anch'io. Il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni, sempre più ore di divertimento e di informazione, sempre più possibilità di interazione con noi. Vai su runtimeradio.it/anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia. Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. This podcast has been produced with Pod Cleaner.